Ho chiesto a più persone cosa sia la misericordia e la loro risposta è stata una non risposta. Erano confusi, smarriti. Evidentemente si tratta di un termine poco usato nel nostro linguaggio. O peggio ancora, di una virtù non esercitata. Eppure chi ha posto fede nella parola di Dio e l'ha accettata come sua suprema autorità in materia di fede e di condotta, la ritrova in essa, con i suoi derivati, più di 400 volte. Solo nel Nuovo Testamento, quasi 80 volte. Il dizionario italiano definisce la misericordia quel nobile sentimento di compassione attiva verso l'infelicità altrui, di solito promosso da una virtuosa inclinazione alla pietà o al perdono. Il dizionario biblico indica la misericordia come l'irruzione divina nella realtà della miseria umana, attraverso la potente azione liberatrice e risanatrice di Gesù di Nazaret. Tale definizione ovviamente è limitata alla narrazione dei Vangeli, ma nulla toglie che sia valida fin dalla Genesi, perché Cristo era presente ed ha agito fin dalla fondazione del mondo. Se compariamo le due definizioni, sono molto simili, con la differenza che il dizionario italiano vede la misericordia dell'uomo verso i suoi simili, mentre il dizionario biblico considera soprattutto la misericordia come l'azione di Dio nei confronti dell'uomo. Due verità sacrosante, ma considerato che non solo le persone alle quali ho posto la domanda, ma forse anche altre, non sono in grado di rispondere, ritengo opportune alcune ulteriori riflessioni. Innanzitutto, non può esserci misericordia umana diversa dalla misericordia divina. Perciò non si può parlare della prima senza aver prima compreso quella divina alla quale è d'obbligo rifarsi. L'Apostolo Paolo usa il termine misericordia due volte nella testimonianza della propria conversione a Timoteo, suo figlio spirituale. Rendo grazie a Cristo nostro Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. 1 Timoteo 1.1.2.16. Prendiamo in esame due aspetti di questo discorso. L'Apostolo Paolo, prima della sua conversione, era un peccatore come tutti gli uomini che non conoscono la verità. Non poteva certamente essere un ladro, un assassino o un adultero, perché, come fariseo, era rigido nell'osservanza della legge di Dio, ma si è definito comunque un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Per bestemmiatore non si deve intendere che dicesse delle parolacce irriverenti contro Dio, anche perché la sua religione glielo avrebbe proibito. Ma Paolo ha usato il termine bestemmia, nel senso che pronunciava parole e discorsi impropri contro la verità, come chi appartiene alla religione cattolica. Quando uno crede in Cristo quale suo unico salvatore e mediatore, si rende conto di aver bestemmiato quando sosteneva l'esistenza di altri mediatori tra Dio e gli uomini, oltre a Gesù Cristo uomo. Quando Paolo disse di essere stato un persecutore, un violento, si riferiva non a un atteggiamento del proprio carattere individuale, ma al perseguitare i cristiani e, con violenza, a metterli in prigione. Di questo comportamento, dopo la sua conversione, Paolo era fortemente dispiaciuto e riconosceva come legittimo il giudizio di condanna di Dio. Ma, come egli ha testimoniato, misericordia gli era stata fatta. Cioè, Dio tramite Gesù Cristo era entrato con una certa violenza nella sua vita, facendolo cadere da cavallo, liberandolo dal cammino settario depravato, per donargli la libertà di vivere nella verità. Nulla di più bello e di straordinario. Un epilogo augurabile ad ogni essere umano, una misericordia di Dio anch'essa augurabile a tutti, ma che, purtroppo, non è così. Come mai? E forse la misericordia di Dio, selettiva, è forse applicabile solo ad alcuni? Sono domande non formali, non di curiosità. Perché tutti, ma proprio tutti, abbiamo bisogno della misericordia di Dio, senza la quale non vi è speranza di salvezza al presente né nel futuro, e per questo la Bibbia ci definisce vasi di misericordia. Romani 9:23. Paolo stesso ne spiega la ragione. Parsa mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Questa aggiunta di Paolo ha un valore inestimabile. Paolo ha attenuto misericordia, perché non era consapevole del male che faceva. Come ebbe a dire un'altra volta, egli agiva in pura coscienza, era convinto di compiere la volontà di Dio. Come del resto, molte altre persone, quali potremmo essere tu ed io, che fino ad oggi abbiamo agito in pura coscienza, anche se forse abbiamo commesso errori di vario genere. Dunque, il comportamento di Paolo, antecedente la conversione, ci dice che per tutti gli uomini ignoranti ci è speranza di ottenere misericordia da Dio. Ma attenzione, per gli uomini ignoranti! Cosa dire allora di quelle persone che vengono a conoscenza della verità mediante il Vangelo? Possono affermare di essere nell'ignoranza, quando la Bibbia afferma di non rubare, di non commettere adulterio, di non dire falsità, di non avere altri mediatori tra noi e Dio se non Gesù Cristo? Ma gli uomini continuano con la massima indifferenza a compiere azioni che sono ripugnanti agli occhi di Dio. Cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo forse aspettarci che Dio sia misericordioso verso di loro? Forse sì, perché nonostante la nostra natura corrotta e malvagia, abita ancora in noi quel nobile sentimento di compassione attiva verso l'infelicità altrui. Ma questo non impedirà a Dio di usare la sua giustizia e ira, anziché misericordia. Non dovrebbe essere così anche il nostro comportamento verso i nostri simili? Dobbiamo guardarci dall'errore di provare un sentimento di compassione che sia migliore di quello di Dio. Se Dio, mediante la sua misericordia, interviene a favore della miseria umana e della sua ignoranza, anche se quando questa è inconsapevole soltanto, chi sono io da essere misericordioso anche verso coloro che, in tutta consapevolezza, compiono il male? Tradirei il senso stesso del termine compassione. Il dizionario biblico specifica che il termine eleos, tradotto appunto con compassione, è il sentimento della commozione che suscita la vista di un qualche male che ha colpito altre persone, per poi aggiungere senza loro colpa. Cosa significa questo discorso? Come posso tradurlo in pratica? Innanzitutto significa che se cade una tegola in testa al mio vicino, provo verso di lui una profonda compassione. Ma se il mio vicino mette una bomba e uccide e ferisce decine e decine di persone, nei suoi confronti non provo proprio nessuna compassione quando ne subisce la condanna conseguente. Se anche provassi verso di lui un sentimento di dolore per la sua infelicità, non lo riterrei per nulla caritatevole, perché lo stesso provo anche verso un animale che soffre. Di conseguenza, faccio attenzione a non considerare ogni mia sofferenza per l'infelicità altrui sempre come un atto di compassione cristiana e quindi anche giusto. Arrivato alla terza età, purtroppo mi sono accorto di come abbiamo idealizzato e direi persino divinizzato i nostri sentimenti umani al punto da ritenere ciascuno di essi proveniente da Dio. Abbiamo volutamente dimenticato che noi esseri umani siamo come delle bestie. Abbiamo dimenticato che soffriamo, gioiamo, procreiamo, giochiamo, amiamo come altri esseri animali. Colui che è gravemente colpevole di assassinio, di stupro o di aver sequestrato un uomo non può ottenere misericordia dalla società. Condivide il dolore degli altri, ma lasciarlo senza l'adeguata pena conseguente al proprio gesto significa offendere e disonorare la vera misericordia umana, quella fatta ad immagine della divina. Vi è un'altra ragione per la quale occorre fare misericordia a chi non è consapevole del male compiuto. È lo stesso Paolo a esporlo poco dopo nel brano succitato, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Dopo avergli dato gloria per la misericordia ricevuta, Paolo riconosce un altro aspetto meraviglioso. Delle vie di Dio, 1, racchiuso altrove nella Scrittura, anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode. E ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76, 10. In effetti siamo tutti perplessi. Meno io per primo, meno in merito al male e all'ingiustizia degli uomini, sapendo che esiste un Dio in grado di contrastare il male. Non poteva Dio impedire a Paolo di incatenare tanti cristiani? Non poteva Dio convertire Paolo dopo il primo carcerato? Domande apparentemente del tutto prive di risposta, la quale è eventualmente possibile solo alla luce della misericordia di Dio. Come avrebbe mai potuto Paolo, e così vale anche per noi, comprendere la misericordia di Dio se non avesse fatto tanto male? Se Dio avesse fermato Paolo alla prima carcerazione, l'apostolo avrebbe mai conosciuto in Dio la sua giustizia, quella giustizia, che non vuole l'ingiustizia, ma che non avrebbe potuto altrimenti far conoscere l'immensa misericordia divina? Inoltre, come avrebbe potuto l'apostolo Paolo essere di esempio a coloro che in avvenire avrebbero creduto in Cristo se lui avesse sbagliato solo poche volte? Avrebbe potuto essere esempio di grande misericordia ottenuta per dei grandi malfattori? E poi come avrebbe potuto Paolo consacrare così pienamente la sua vita alla causa di Cristo, dato che Gesù ha detto, colui al quale poco è perdonato poco ama? Certo, tutto è possibile, ma chi è in grado di comprendere ciò che non sperimenta? Non è forse vero che il nostro amore per Dio è proporzionato alla consapevolezza di quanto siamo stati amati? Ecco perché l'ira, o l'ingiustizia degli uomini, ritorna a lode di Dio, o meglio, perché mette in evidenza la misericordia di Dio. Nella sua sapienza, Dio ha deciso che il male compia il suo percorso, perché egli potesse mostrare agli uomini e agli angeli la potenza e il valore della sua misericordia. Nella sua essenza, Dio è amore, e la sua misericordia è l'amore messo in pratica. Condivido pienamente un'altra traduzione del Salmo 76, che rende, sì, l'uomo colpito dal tuo furore ti renderà grazie, e lo scampato dalla tua ira ti farà festa. Questo è ciò che produce la misericordia quando è stata accettata, e quando si è inferiore a questo, ho il tremendo, lecito dubbio che, per la maggioranza, la misericordia sia solo una parola senza senso. Non è, forse, anche questa una ragione per cui non conosciamo e non dimostriamo la vera misericordia. Dicembre 2011, Ellero,